La vita è come una pizza. È buona quando esce dal forno e scotta. Forse anche perché hai tanta fame. E allora la mangi veloce e ti ci bruci. Poi, piano piano, molto prima che tu sia a metà, la mozzarella si indurisce e la pizza comincia a diventare cattiva. Ma tu la mangi lo stesso. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Allora, io avevo 13 anni e mio cugino ne aveva 7. Di solito io e lui giocavamo a pallone insieme nel cortile di casa sua. E vincevo sempre io, chiaramente, perché mi piaceva vincere facile. E poi bullarmi un po' con gli altri amici più grandi. Eravamo da soli, però nei dintorni c'era sempre qualcuno. Mia mamma, sua zia, mia nonna. Poi un giorno in cui i miei non c'erano, sua mamma mi chiese se potevo stare con lui un'oretta, più o meno. Perché lei aveva una commissione da fare. Le dissi di sì, senza nemmeno pensarci, ovviamente. Poi, quando lei se ne andò, io mi resi conto. Ero rimasto da solo con un bambino più piccolo di me e dovevo accudirlo. Ovviamente ero troppo piccolo per pensare a tutte le cose terribili che potevano succedere in quell'ora di accudimento involontario. E infatti continuiamo a giocare a pallone come se niente fosse. Poi a un certo punto successe l'irreparabile. Tommaso mi dice che non si sente tanto bene. Si siede per terra. In un attimo il colore del suo viso diventa quello di un cono al pistacchio. Io mi avvicino come per chiedergli che cos'ha e lui, come nell'esorcista, vomita tutto il pranzo sulle mie scarpe. Io comincio ad andare nel panico. Lui non risponde più agli stimoli. Lo chiamo e niente. Lo schiaffeggio e niente. Prendo dell'acqua e gliela verso in faccia dicendo: Tommaso, ti prego non morire, senza sapere che non si muore per un conato di vomito, ovviamente. Lui mi dice che non si sente molto bene. Io gli rispondo che lo vedo che non si sente bene, ma che dovrebbe cercare di riprendersi perché io ho la responsabilità. Poi lo prendo in braccio e lo porto in camera sua. Lo sdraio sul letto e rimango a guardarlo. Dopo un'interminabile ora e mezza torna sua mamma. Io non so che cosa dirle. Ho la sensazione che sia colpa mia. Temo di avere fatto qualcosa che ha fatto ammalare mio cugino, che non si riprenderà mai più. Lei invece entra in stanza, sorride e mi dice che è tranquillo, Tommaso aveva già un po' di febbre, non sarà niente. Sì, forse non sarà stato niente, ma io ci ho perso un anno di vita. Ecco, me l'ero quasi dimenticato di essere già rimasto da solo nella mia vita con un bambino. Me l'ero dimenticato l'altra sera, quando sono rimasto da solo con Ettore e mi è sembrato di stare con un alieno. Poi ve la ricordate la prima volta che vi siete ritrovati da soli con un bambino da accudire? Vostro nipote, vostro cugino, quando avete fatto da babysitter la prima volta, quando avete tenuto il figlio di amici. Chi era quel bambino? Cos'è successo? Quanto terrore vi ha assalito quando vi siete trovati da soli con quell'essere sconosciuto per la prima volta? Will, lei è Elizabeth. Prendila in braccio se vuoi. Ok. Sì, la tengo. È carina. Sì, è deliziosa, vero? Oh, sì, non è dolce. A dire la verità, Chris, sono un po' a disagio con lei. Meglio che te la riprendi. E pensare che poteva essere tua se avessi messo la testa a posto. Fa molto ridere quel pezzo in cui lui fa che posso immaginare che stia tipo la stia cullando. Cos'è? About a Boy questo pezzo, giusto? 800240024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666 per mandare gli sms in diretta. Allora, va bene anche quando siete rimasti da solo con vostro figlio per la prima volta, quando ve l'hanno messo sulla pancia oppure quando l'avete preso in braccio. È un po' diverso però, è un po' diverso, nel senso che lì credo che ci sia un'emozione talmente forte che copre qualsiasi timore, paura, senso di responsabilità. Mentre è molto più interessante quando ci avevate 10 anni, quando ne avevate 12, o anche quando ne avevate 25 e vi hanno dato vostro nipote, oppure il vicino di, come nel mio caso, il figlio dei vicini di casa, e vi siete ritrovati lì con questo essere strano che siete stati anche voi, ma che non siete più, e quindi non capite bene come gestirlo. Se avete fatto la ragazza alla pari, ad esempio, a casa di qualcuno per pagarvi gli studi all'estero. 800240024 349-238-6666. Nicolò dice: a dicembre ho tenuto da solo mio nipote Lorenzo per la prima volta. Aveva 7 mesi. Mazza, 7 mesi sono un po' pochi però. Tua sorella o tuo fratello sono disperati. E non sapeva camminare, andava a gattoni, per forza, ci aveva 7 mesi. Rimaneva seduto a guardare i Teletubbies. Funziona sempre i Teletubbies. Cioè, sto mio amico che ha sta figlia, la piazza lì davanti e fanno veramente orrore. Da seduto sul tappeto è caduto all'indietro, sbattendo la testa. terrore totale. Non si è fatto nulla per fortuna, ma io ho preso una gran paura. In più, dovevo andare in bagno, ma non potevo andarci perché volevo tenerlo sempre sotto controllo. Alla fine è tornata sua mamma e sono corso in bagno. Oggi io sono qui, domani, domani Nicolò, non lo so, spero meglio che in questa posizione. 80024 0024. Benedetta, a 17 anni, corso di nuoto. Io allenatrice di 5 bambini tra i 4 e i 7 anni, tutti in riga sul bordo della vasca, i loro occhi e quelli dei genitori che mi scrutavano. Mi infilo la cuffia, li guardo e dico: allora, chi di voi sa fare la stellina? Che però non ho capito esattamente. La stellina tipo a che apri le braccia, a fare il morto. Ah, benissimo, è andata subito al dunque. Lucia, la prima volta che in assoluto ricordo è stata quando a poco più di 6 anni ho preso sorellina di 2 o 3 mesi schiaffata nel passeggino e ho detto alla mamma che ci pensavo io ad addormentarla. E così è stato, sono uscito e ho camminato avanti e indietro per la stradina che porta verso casa, perché la sorellina non si è addormentata. Tutti felici, ero molto soddisfatta, peccato che dopo 5 minuti da rientro si sia svegliata. Insomma, qualsiasi sia stata quell'occasione, in qualsiasi momento della vostra vita, se avevate un bambino piccolo da gestire, quella sensazione lì, quella di stare con un essere che è leggermente diverso da voi e da noi. 80024 0024, 349 238 6666. Il tutto perché questa roba qua, l'altra sera, è successa a me. Paola alla fine è stata via dalle 7 alle 10, lasciandomi con Ettore per più dei 20 minuti che mi aveva promesso. Non è stato grave, è solo che non c'ero preparato. Quindi ho dovuto inventarmi qualcosa. Paola mi chiamava ogni quarto d'ora per scusarsi perché erano sorti degli imprevisti, ma che se avevo difficoltà poteva lasciare suo marito in tangenziale e tornare subito a riprendersi suo figlio. A me non sembrava una cosa carina da fare, quindi l'ho rassicurata. Mi sono occupato di me stesso per anni, vuoi che non riesca a star dietro a un bambino, figurati. Ettore non parla. Mai. Gli faccio delle piccole domande dopo averlo messo seduto comodo in poltrona e poi gli porto un bicchiere di Coca-Cola. Lui la guarda e mi chiede: che cos'è? Perfetto, ho fatto la mia prima cagata. Gli dico niente, niente, e gli porto un bicchiere d'acqua. Poi gli indico il bagno, nel caso avesse bisogno. Lui ha bevuto e poi ha tirato fuori una cartellina che teneva nascosta con dentro un paio di quaderni. Voilà, ho pensato. Deve fare i compiti. Ok, Ettore, allora mangiamo qualcosa, che ne dici? Tra l'altro, se poi devi fare i compiti, posso darti una mano, gli dico. Lui, niente. Mi metto ai fornelli e preparo una pasta all'olio, che non si sbaglia mai. Intanto accendo la TV e metto un programma di quiz. Lo guardo e gli chiedo: ti piace? Lui mi guarda e mi risponde: noi non abbiamo la televisione. E io mi fermo, fisso intensamente il mio telecomando e poi gli chiedo: scusa, in che senso non avete la televisione? Ettore mi conferma che nella sua famiglia guardare la TV è considerato sbagliato e che non hanno la televisione, però pagano il canone lo stesso perché ne hanno una in cantina e non si sa mai che magari l'esatri viene e ti pignora la casa. Io sto molto attento, quindi non commento, perché non bisogna mai mettere il becco nelle scelte familiari altrui, soprattutto se sono i tuoi vicini e ti hanno lasciato un figlio in affido per qualche ora. Il passo verso la denuncia da lì in avanti è brevissimo. Quindi mangiamo la pasta. A lui non piace, ma continua, è abituato a casa. Non piace nemmeno a me, e per scusarmi gli faccio assaggiare della Coca-Cola senza nemmeno chiedergli se gli piace oppure no, ma il suo sorriso è sufficiente. E allora mi dice che però lui, quando va dagli amici, gioca con la PlayStation e ha visto che ne ho una anche io, anche se un po' vecchia. Perfetto. Cominciamo una sfida a Grand Theft Auto, che è il suo gioco preferito. È una cosa in cui praticamente più fai cose da criminale, più punti prendi. Ettore è fortissimo. Io appena appena gli sto dietro. Ma lui non gioca con me. Sta cercando di distruggere quel mondo immaginario che c'è nello schermo e guadagnarsi tantissimi dollari finti. Ed è stato lì, mentre mi ridicolizzava a Grand Theft Auto, che ho deciso che era giunto il momento di dirgli la grande verità. La verità che nessuno gli aveva ancora svelato. Ho deciso che era giunto il momento di dirgli la grande verità. la verità che nessuno gli aveva ancora svelato. Ettore, vedi, la vita è come una pizza. Ettore si è girato e mi ha guardato con quegli occhi che solo i bambini hanno, quando non hanno alcuna espressione. Ma si capisce che se non continui a parlare sei fottuto, perché possono fare qualunque cosa, da mettersi a piangere, a urlare mamma, mamma, questo mi picchia, fino a rimanere in silenzio per tutto il tempo che vogliono, all'infinito. E allora ho proseguito. La vita è come una pizza margherita. È buona da mangiare. Quando esce dal forno scotta, ma è il momento in cui è più buona. Forse anche perché hai tanta fame. E allora la mangi veloce e ti ci bruci. Poi, piano piano, molto prima che tu sia a metà, la mozzarella si indurisce e la pizza comincia a diventare cattiva. Ma tu la mangi lo stesso perché non è male. Però cominciano a venirti in mente delle strane idee, tipo rimetterla nel forno per farla tornare come era all'inizio. Solo che questo non ci si può fare e quindi ci rimani male. In quel momento cerchi di divorarla, perché ogni secondo che passa la raffredda ancora di più. E mentre la mangi con forza, ti dispiace che non ci sia più la mozzarella filante e la pasta morbida. E quindi ti viene la malinconia. E in più ti si gonfia lo stomaco, perché stai mangiando troppo veloce. Ma se anche te ne accorgi, non ce la fai, non riesci a fermarti. E quello è il momento peggiore. Quando invece poi la pizza la stai finendo, ormai è fredda e fa schifo. Però pur facendo schifo, rispetto a quando è uscita dal forno, è sempre più buona degli spinaci al burro. Per cui stai un po' lì, fermo, lasci che la pizza che hai divorato a metà scenda e incominci a goderti l'ultimo quarto, a pezzettini, come se fossero degli scarti. E lì ricominci a sorridere, perché la crosta, anche se dura e fredda, è gustosa. E la mangi chiacchierando, quindi non le dai tanta importanza. E ogni tanto ti capita un pezzetto di mozzarella o uno di pomodoro, e allora ricordi la pizza quando era ancora calda. Ti tocchi il palato con la lingua e senti che è ancora un po' insensibile, per colpa di quando ti sei scottato, pochi minuti prima. E il tempo si dilata, e cominci a bere la Coca-Cola. E pensi a come riuscirai a mandarla giù, tutta quella pizza. E che te la ricorderai anche quando sarai tornato a casa. Ma non soffri. Nemmeno quando c'è il conto da pagare, perché una pizza è la cosa più buona che c'è e non costa nemmeno così tanto. Ettore mi guardava senza cambiare espressione, col joystick in mano, e io ero contento di avergli spiegato una cosa importante. Poi lui si è girato verso la TV e ha ricominciato a giocare. E mentre metteva sotto un passante con un'auto mi ha detto: «Io non l'ho mai mangiato una pizza». La mamma dice che ha la farina raffinata, che mi fa male. La partita finisce ed Ettore ha ancora energia e quel quaderno da riempire. Io gli chiedo cosa fa di solito la sera invece di guardare la TV come i suoi compagni di scuola e come me peraltro. Lui mi dice che legge, che gli piace, libri di avventura, fantasy, titoli che non conosco. E poi mi dice che per domani deve finire un tema, se lo posso aiutare perché è un tema sulle vacanze di Pasqua e che però non è successo molto nelle vacanze di Pasqua. Allora lì io mi eccito e gli dico: «Certo, senti, come vai col dettato?» Lui dice che se la cava. Allora io comincio a inventarmi una storia. Una storia in cui lui e la sua famiglia erano andati da certi amici che vivono in campagna. E il sabato aveva visto sgozzare un agnello. Un agnello che il giorno dopo avevano mangiato. E che c'era rimasto male. E aveva pensato che forse aveva ragione Safran Foer, che mangiare altri esseri viventi non è bello e forse non è nemmeno giusto. E che però l'agnello gli era piaciuto moltissimo. Alla fine gli ho fatto scrivere anche che gli amici dei suoi avevano una figlia di 9 anni e che a un certo punto loro due si erano nascosti nel fienile, ma che quella era un'altra storia, forse la maestra non voleva sentirla. E poi aveva finito le pagine a disposizione. Ettore era molto veloce nel dettato e quel tema rimarrà il nostro segreto, ci siamo detti. E poi, all'alba delle 10 di sera, Paola è riapparsa alla porta di casa mia, scusandosi in tutti i modi, con le mani sporche di grasso e la faccia di chi aveva fatto la maratona di New York. Le ho riconsegnato Ettore e lei mi ha ringraziato come se l'avessi trovato in tempo una malattia gravissima. Ma c'era proprio poco da ringraziare. Era stata la più bella serata degli ultimi mesi e avevo anche imparato un paio di trucchetti per Grand Theft Auto, trucchetti che non conoscevo. Grazie, Ettore. Dove metto la roba? Dove dormo? Ma perché? Che intenzioni c'hai? Non ho capito. Io dalla portiera non ci sto e neppure all'istituto. Ma che, allora vorresti stare qua? La colpa è tua se sono solo. Sei tu che mi hai arrestato la mamma. Mia sorella mi ha lasciato per un'ora la mia nipotina di 3 mesi, che di solito è angelica, ha urlato senza smettere, stavo per chiamare la Croce Rossa. Chiara, magari l'ambulanza, perché proprio la Croce Rossa. 80024 0024 oppure 349 238 6666, dipende se avete voglia di raccontarlo, semplicemente di scriverlo di quando siete rimasti da soli con un bambino. 5 anni, io avevo 5 anni, mia sorella 1, da soli in casa. Esco in strada a giocare e lascio mia sorella vicino alla porta, nel suo ovetto. Cos'è l'ovetto? Ah, l'ovetto è quello in cui sta incassato. Una folata di vento chiude la porta, prendo in braccio mia sorella e attraverso tutto il paese, tra parentesi Gangi. Il paese è Gangi. Chi lo sa? Chiunque sappia dov'è Gangi. 349-238-6666. Attraverso tutto il paese per andare da mia zia, con lo stupore della gente che ci vede passare. E poi ancora, praticamente da circa 30 anni vivo esperienze emozionanti con bambini piccoli, ma non auguro a nessuno di dover disostruire per ben 2 volte le vie aeree ai miei figli. Disostruirà perché si soffocano. Ma lì però li prendi e li sbatti per i piedi, ho visto un servizio di quelli cartoni animati, perché sono leggeri. Li prendi per i piedi e gli dai un sarcollone così. 800... Cioè, certo che è facile dirlo, soprattutto per uno che i figli non ce l'ha e non l'ha mai fatto. 80024 0024. Oggi mi è arrivato un messaggio, che è stato il primo messaggio che è arrivato sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, di Alberto, che dice: dovevo accudire la mia sorellina appena nata, io avevo poco più di 8 anni, decido di prepararle un latte caldo e il resto lo faccio raccontare da Alberto. Pronto, Alberto? Ciao Matteo, come stai? Ciao, io sto bene, grazie innanzitutto per essere con noi da Manchester. Addirittura, sì. Addirittura. Tu... Ricordami che cosa fai a Manchester, Alberto. Io sto facendo un master qui, un MBA, che tutti pensano che stia giocando a basket, invece è un master in business administration. Ok, su che cosa? No, un MBA è un MBA. Esatto, gestione aziendale, chiamiamola così. Gestione aziendale, perché business administration, altrimenti no, non... Esatto. E quanti anni hai, Alberto? 26. 26, quindi questa cosa succedeva poco meno di 20 anni fa. Diciamo 17 anni fa più o meno, sì, adesso. Ma tu di dove sei, Alberto? Scusami, c'hai un accento strano. Io sono di Padova. Ah, sei d'altra parte, Schiavon, non potrebbe essere altrimenti che del Veneto. Allora, diciamo, tu rimani da solo con la tua sorellina che c'ha pochi mesi. Esatto, se non che per me più o meno la sorellina era un giocattolo, diciamo, insomma, certo. Si giocava piacevolmente con questa... Sono fatti di gomma, si dice anche, i bambini a una certa età. Esatto, no? E se non che mi viene in mente questa idea di fare un latte caldo, perché io pensavo che lei avesse voglia di ciò, e vedevo che la mamma, insomma, la tecnica che usava era far bollire un po' d'acqua dentro un pentolino e metterci la ciuccia. Se non che io la ciuccia è il biberon. Sì, il biberon. Ok, sì, perfetto. Scusa. No, di che? Forse è il Veneto. Sì, immagino. Quindi? Quindi io la metto lì, però ovviamente il risultato non è immediato, bisogna che l'acqua bollisca. Mentre l'acqua bolle, io vado a giocare con la mia sorellina Brigitte, quando che mi dimentico, insomma, di aver lasciato la biberon sul fuoco, il tempo passa, io sto giocando con lei. L'acqua evapora? L'acqua evapora, la ciuccia si fonde sul metallo del pentolino, si crea, come dire, una sovrappressione di latte all'interno della ciuccia, effetto... come dire, di una locomotiva a vapore, esplode la ciuccia, latte vaporizzato dappertutto in cucina, e lì me la sono vista brutta. Ma sorellina viva, sorellina viva? Sorellina viva, sì, perché... Che adesso ha quanti anni? Adesso ha 17 anni, va per i 18. Benissimo, allora lei ti ringrazierà per essere ancora viva. Di tutta questa storia mi rimarrà però, devo dire, Alberto, la ciuccia, che è la prima volta che lo sento dire in vita mia, e però insomma spiega bene che cos'è il biberon. Alberto, grazie mille e in bocca al lupo lì a Manchester. Grazie a te. Ciao, grazie, te, ciao. 80024 0024 per raccontare della volta che siete rimasti da solo con un bambino. Prima però di dare la linea alla borsa, voglio ricordare quello che stiamo facendo per avvicinarci al Salone del Libro di Torino, che sarà giovedì 12 maggio del 2011 per quanto ci riguarda, che è il racconto che vi racconta. Vi sto chiedendo semplicemente di mandare un racconto di una pagina e vi chiedo per piacere, non di più, di una pagina che racconti qualcosa di voi, che racconti un episodio della vostra vita, che racconti una giornata particolare, che racconti qualcosa che vi è successo in un momento particolare della vostra vita e che in qualche modo oggi racconti meglio di qualsiasi altro episodio di voi. Questo piccolo racconto è un estratto, il racconto si chiama Cuore di miele e ce lo scrive Paola. Paola, te sei sempre stata l'imbambita. Così, senza enfasi e senza punti esclamativi, la mia amica Cristina mi descrive. La mia amica quindi dice tante cose sul mio conto, ma questa mi torna in mente spesso, soprattutto dopo aver ritrovato Nicola e il bambino scorretto. Fra queste due frasi ci sono passati 30 anni. Nicola è stato il mio primo fidanzato, il primo amore dei 14 anni, quello del quale si ricordano tutti i dettagli. Cristina è la mia amica del cuore, trovata a 25 anni in mezzo ai casini e tenuta per mano fino ai casini odierni. Nicola mi ha ricordato che a quel bambino, quello che mi ha sotterrato nella neve alla stazione delle Corriere circa 1 milione di anni fa, io non ho saputo far inghiottire lo zaino. Non l'ho riempito di aggettivi su di lui o su sua mamma. Non gli ho urlato contro niente. Gli ho solo detto, rossa di rabbia e congelata, bambino scorretto. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo davanti a un tabellone con delle tariffe. Siamo in riva a un lago perché si vede anche un angolino di lago con dei battelli alle spalle. Sono più che altro delle tariffe di un traghetto, dice. Adulti 0,35, con bicicletta ciclomotore 0,50. Bambini sotto i 10, 0,10 centesimi. Sabato e festivi, apertura 7:30, chiusura 20. Sotto però ci sono anche delle scritte in tedesco, quindi probabilmente siamo dalle parti dell'Austria, non lo so, però sotto c'è scritto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi. Massimiliano Cona, 39 anni, con mia figlia Matilda guardiamo il traghetto che unisce Porto Garibaldi al Lido degli Estensi. Circa un minuto di percorrenza, 30 metri. Questo è il tariffario. Io sono qui. Benissimo. Quindi, come ci dice Stefano D'Andrea di là, Porto Garibaldi è in provincia di Ravenna, mentre Gangi è un piccolo paese in provincia di Palermo. Abbiamo fatto anche la geografia, domani faremo la storia. Basta. Chiuso. Ah no. 800240024 349-238-6666. Prima di prendere le telefonate di quelli che hanno accudito dei bambini, voglio leggervi alcuni pezzi di un libricino che mi ha portato Tiziano, di Nathaniel Hawthorne. Si chiama 20 giorni con Julian. È proprio un librino di 50 pagine, per cui Hawthorne ha avuto 3 figli nella sua vita, due femmine e un maschio. Un giorno però la mamma, la moglie, insieme alla sorella, cioè la zia, piglia le due bambine e se ne va dai parenti. Lui rimane nel Massachusetts, in questa casettina rossa in campagna dove vive, da solo con questo bambino che si chiama Julian. In questo libretto racconta, è un piccolo diario in cui racconta la sua esperienza di vita con sto bambino, con cui non è la prima volta che ci sta, ma è la prima volta che ci sta da solo. 20 giorni con Julian. Lenox, lunedì 28 luglio 1851. Questa mattina alle 7 mia moglie, sua sorella Elizabeth, Una e Rosebud sono partite, lasciando Julian e me padroni della nostra casupola rossa. Il primo commento del signorino a quel punto è stato: «Papà, non è bello che la piccolina se n'è andata?» L'assoluta certezza che condividessi quel suo sentimento mi è sembrata assai bizzarra. «Perché è bello?» gli ho chiesto. «Beh, perché adesso posso strillare e strepitare quanto voglio.» Non so bene come siamo riusciti a cavarcela con il bagno del mattino e con altre attività sensate di tal fatta. È impossibile scrivere, leggere, pensare o anche dormire, perché in un modo o nell'altro ricorre a me continuamente. Eppure è un ometto così gioviale e amabile che sa darmi, inframmezzato a tutto il fastidio, un innegabile piacere. 20 giorni con Giulia, Nathaniel Hawthorne. Marco invece scrive: ecco come nascono i serial killer, riferendosi ad Ettore. Niente pizza, niente Coca-Cola, niente TV. Ranieri invece: a 26 anni sono rimasto da solo col figlioletto di mia cugina di 7 mesi. L'ho cambiato e sono riuscito a mettergli il pannolino all'incontrario. Ma questo mi sembra poco rispetto a quello che ha fatto Sara, che chiama da Roma. Pronto Sara? Pronto. Ciao, come stai? Bene, bene, voi tutto bene? Mi dai del voi o semplicemente chiedi a tutti della redazione? A tutti, guarda, stiamo, tra l'altro, perdonami Sara, prima di andare avanti, altrimenti poi vengo messo in croce. Porto Garibaldi non è in provincia di Ravenna, è in provincia di Ferrara. Nell'errata corge. Grazie mille. Sara, allora, tu gestivi a 18 anni un bambino di 10 giorni? Sì, di 10 giorni. Perché facevi la babysitter? Esatto, in realtà io ero la babysitter della sorellina che aveva 5 anni, sì, e la mamma era incinta. Io studiavo all'università e alzavo, si dice così, no? Qualche soldino facevo babysitter. Quanti anni hai adesso, Sara? 32. Ok. No, semplicemente non voglio sapere la tua età, per sapere quanto tempo fa è accaduta. Ok. Cosa succede? È successo che, voi sapete, quando i bimbi sono piccini, fanno una poppata ogni 3 ore, quindi la mamma era pressoché legata in casa. Certo. E, diciamo che tra una e l'altra la madre ha avuto bisogno di uscire, rassicurandomi, dicendomi non ti preoccupare, perché insomma un pezzettino di carne di 3 kg non può fare assolutamente nulla. Un pezzettino di carne di 3 kg. Però tu hai fatto il disastro, dici. Beh, ho fatto il disastro. In realtà l'ha fatto lui il disastro, perché quei 3 kg di essere umano, non appena la madre ha messo la chiave nella toppa ed è uscita, ha cominciato a strepitare. Allora io ho controllato il suo pannolino e purtroppo aveva fatto, diciamo, il danno, aveva fatto la popò. Vabbè, ma sai che danno, scusami Sara, è un bambino, ne fa tanta. Sì, e va bene, gli abbiamo tolto il pannolino, perché sì, in tutto questo c'era anche la sorellina, di fronte alla quale dovevo dimostrare una certa sicurezza. Chiaramente, certo. Tolgo il pannolino all'essere, e dico, lo porto in bagno, lo comincio a lavare, ma io non l'avevo mai tenuto neanche in braccio, era minuscolo, voi non avete idea di quanto possono essere. Senti, piccoli. Sara, perdonami, fammi capire, la tua carriera di babysitter com'è finita poi da lì in avanti? No, è andata alla grande, perché poi sono rimasta con loro per anni. Senti, tu Sara non hai figli? Adesso sì, una bimba. Ah, ma guarda, da come li nominavi avevo la sensazione che proprio invece no. Da quanto ce l'hai? Da 2 anni e mezzo. E come va? Va bene, va alla grandissima, solo che per lavare quell'essere mi ha fatto la pipì addosso e dopodiché mi ha anche vomitato sulla spalla. Ok, volevamo arrivarci Sara, grazie mille, buona giornata. A voi. Ciao, buona giornata. Andiamo da Thomas dalla provincia di Bologna. Pronto Thomas? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tutto a posto. Senti, tu hai avuto un problema, nel senso che la mamma del bambino, cioè tua moglie o sì, la tua compagna... La madre di mia figlia, diciamo così. La madre di tua figlia, non diciamo. Siamo sposati, ok. Quindi, vabbè, ma è ancora la tua compagna? Sì, sì. Ok, sì, mi sopporta, sì. È stata poco bene quando lui è nato? Sì, un parto modello esorcista, non come nei film che fanno i filmini. Sì. No, quindi un parto un po', diciamo, lungo e travagliato. Che me l'hanno portata via appena partito 5-6 dottori, mi hanno appoggiato questa cosina in mano, hanno detto questa è tua figlia. E io per 2 giorni la madre non l'ho vista, sono rimasto all'ospedale io a fare il mammo, come mi chiamavano le infermiere. E quindi sei rimasto da 2 giorni con questa bambina, sì, di 2 giorni? Sì, da capolone impenitente che era rimasto con i genitori fino al giorno prima. Quanti anni avevi, Thomas, scusami? 36. Ah, quindi l'avevi tirata lunga? Due anni fa. No, l'avevi tirata lunga, sì, di calore. Per me andava lunga ancora, ma... cioè nel senso che non era previsto. Ma se, no, era previsto, diciamo che era previsto, però insomma, sai, il salto è molto grande. Dimmi un ricordo buono e uno cattivo di quei 2 giorni con questa bambina di 2 giorni. Ma i ricordi buoni sono tanti, però sì, non è come nei film, insomma. Cioè, com'è nei film, no, Thomas? È traumatico, diciamo, proprio il parto. Cioè, uno deve essere convinto per entrare dentro, eh? Vedo che ti ha segnato. Thomas, grazie mille. Buona giornata. Va bene, saluto, complimenti. Ciao, grazie anche a te. Ciao. E ancora un altro piccolo pezzo. 20 giorni con Julian. Lennox, martedì 29 luglio 1851. Oggi Julian ha trovato un ottimo modo per passare il tempo. Grazie al coltello a serramanico, fortunatamente del tutto smussato, che gli avevo dato perché si divertisse a tagliuzzare qua e là. Così ha costruito quella che a suo dire è una barca e che ha dichiarato di volere fare 4 stuzzicadenti per sua madre, per sé, per una e per me. Per ben 2 volte ha coperto di truccioli il pavimento del salottino, traendone un diletto talmente inesauribile che la perdita di un dito o due non sarebbe, credo, un prezzo poi così alto da pagare. Pierluigi, non mi ricordo la prima volta, essendo il primo di 4 figli e zio di 4 nipoti, ma mi ricordo perfettamente la prima ed unica volta che ho dovuto mettere una supposta al mio nipotino. Scioccante e indimenticabile. Magari più per il tuo nipotino. Andiamo a Pisa la Franca. Ciao Franca! Ciao. Ciao Matteo, come stai? Io sto bene, te come stai? Benissimo, benissimo, mi cogli qui nella veste di nonna. In questo momento preciso? In questo momento preciso sto facendo la nonna con la mia nipotina Miriam di 2 anni. Bene. Però ti voglio raccontare quello che mi è successo quando avevo 11 anni. Vai Franca, vai dritta. Sì, sì, mia prima nipote, allora me l'hanno affidata, la mia sorella era andata un minuto a un negozio, lei aveva 4 mesi in quelle carrozzine molto alte come si usavano allora. Cioè le carrozzine un po' come quella di Fantozzi, la carrozzella sì, col bambino benissimo, benissimo, che cade, la corazzata Potion, l'inglesina, certo. Sì, tipo. Sì, sì, sì, quella lì. Quindi io, vista la pioggia, ho messo al riparo la mia nipotina, naturalmente sotto un albero, e la carrozzina si ribalta, la bambina cade fuori e io, presa dal panico, vado via verso il semaforo. Ecco, la sensazione di panico mi è rimasta. Senti, allora, solo una cosa mi sfugge, solo un dettaglio proprio logistico, Franca. Com'è che si è capottata la carrozzina sotto? Dunque, perché c'è l'aiuola intorno agli alberi, no? Quelli sì. Sui marciapiedi. E cioè. Niente, io la volevo riparare e proprio mi si è incappottata. E la sensazione di panico ce l'ho ancora oggi, dopo 46 anni. Senti, e invece con la nipotina va alla grande, ovviamente. No, beh, poi ho avuto tanti altri nipoti, ho avuto 3 figli, ora ho 2 nipoti. Senti, Miriam e Diego. E cosa hai fatto nella vita, Franca, oltre a fare la mamma e adesso la nonna? Nella vita insegno storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Di Firenze, quindi, non sì, di Pisa? Sì, sì. No, no, di Firenze, perché c'è a Firenze l'Accademia. Ma ancora, perdonami, ancora insegni? Sì, sì, ancora, ancora, ancora. Ah, ma quanti anni hai, Franca? Io 57. Ma sei una bambina. Sono una grande affezionata di Radio 24. Noi la condividiamo in famiglia anche con i figli lontani. E dove sono i figli, Franca? Dove sono? Eh no, uno solo è lontano. Dov'è? Ferrara. Ah, vabbè, sembrava a Duisburg. Franca. No, hai ragione, Teo. Ma sai, io da buona mamma sono calabrese meridionale, amerei fare la chioccia. Franca, sempre. Io ti giuro, ti lascerei andare da sola per tutto il tempo, però devo chiudere, perché dopo ci chiedo asilo. Buona giornata, Franca, grazie va ancora. Bene, grazie, Matteo. Ciao. Ciao. Ce la facciamo in tempo a sentire Luis da Milano? Sì, ce la facciamo. Pronto, Luis? Ciao, Matteo. O Luis. Ciao Matteo, ascoltami, a me dime, Luis, una cosa, direi. L'ho sentito prima, io ho 4 fratelli che tutti sono piccoli, no? E sì. Dopo di curarli a loro, sì. Avevano più o meno 13 anni, mi ero portato un nipotino, però solo che lui era diverso. I miei fratelli, noi siamo dei capelli lunghi, dei piccoli. Di dove sei? Luis, di dove sei? Colombiano. Sei colombiano, ok. Sì. E questo ragazzino era biondino, però era pelato, non aveva neanche un anno, 8 mesi, sì. Me l'hanno lasciato con me, l'ho lasciato sul divano, sì. Giocando con gli altri bambini mi è accaduto. Cioè, no, scusa Luis, perdonami, l'hai lanciato sul divano? No, l'ho lasciato sul divano. L'hai lasciato, perdonami. Sì, lasciato, sì. Ti è caduto dal divano? Mi è caduto dal divano e si è fatto un brufolo nella testa. Te lo posso giurare, io mi sono spaventato tanto che mi sembrava un'altra testa questo bambino. Come lui era pelato, biondo... Sì, sembrava che dovesse cresciuto un'altra testa. Lui, senti, no. Purtroppo ti devo salutare. Dimmi solo una cosa, ma dov'è che sei che si sente un casino infernale? Purtroppo sono qui in un'Eselunga, mi ha trovato preciso facendo un po' di spesa. Va bene, Luis, grazie mille, fai una buona spesa e buona giornata. Mi allegra averti sentito, da ciao. Un po' che ti provava, grazie. Ciao Luis, grazie a ciao, te. Ciao. Cos'è che hai detto? Allegra di averti sentito. Felice di aver sentito, ok. Chiudiamo, ci sta ancora un pezzettino di Othon, che è il pezzo finale che abbiamo scelto per oggi, che è sempre tratto da 20 giorni con Julian, suo figlio. Domenica 3 agosto 1851. Fra le 2 e le 3 l'ometto mi ha svegliato lanciando un urlo e, caso strano, l'ho trovato completamente zuppo. C'era stata un'alluvione nel suo letto e soltanto lì. Perciò sono stato costretto a scendere per cercargli una camicia da notte pulita e fare tutto il possibile per dargli un po' di conforto. Nel caso di Julian, un simile incidente si può quasi considerare senza precedenti. Ci è voluto un bel po' prima che mi riaddormentassi. E quando alle 6:30 passate mi sono svegliato, lui sembrava sveglio già da parecchio. Gli ho fatto il bagno, l'ho fatto anch'io. E poi, come al solito, ho acceso il fuoco in cucina e sono andato a prendere il latte. La mattina era perfetta, con un sole largo e splendente. E, credo, non una sola nube in tutto il cielo. Ad eccezione di qualche ghirlanda di foschia sparsa qua e là, sui pendii delle colline in lontananza. Il lago era liscio come uno specchio e restituiva il riflesso immobile dei boschi e delle colline. Giovedì 12 maggio alle 16 per il Salone del Libro. Io sono qui, @radio24.it, per mandare il vostro racconto. Grazie a Paolino Corleone e ai suoi effetti mirabolanti. Grazie a Stefano D'Andrea, grazie a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?